Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Il presidente Napolitano ha promulgato la legge sul cosiddetto legittimo impedimento a comparire in tribunale, che serve solo a non far processare Berlusconi, dato che questa legge non è utilizzabile da nessun'altra persona in Italia. Se l'ha promulgata, vuol dire che sicuramente non vi ha trovato traccia di incostituzionalità. Mi chiedo, si è consultato con qualche costituzionalista? Non vorrà fare un'altra volta la figura del lodo Alfano. Sebbene questa legge avesse ben due macroscopiche forme di incostituzionalità, legge costituzionale e uguaglianza dei cittadini, Napolitano l'aveva promulgata lo stesso. Giuseppe. Caro Giuseppe, è ormai ricorrente il tema e anche le polemiche sulla possibilità che il Presidente della Repubblica non firmi una legge approvata dal Parlamento. Allora è opportuno ricordare che l'articolo 74 della Costituzione afferma che il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge, può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Fin qui la Costituzione. Non si parla quindi esplicitamente di un controllo di costituzionalità, controllo che spetta soprattutto alla Corte Costituzionale. Il Presidente può rinviare una legge alle Camere per le più varie motivazioni, ma è comunque tenuto a promulgare la stessa legge se questa viene approvata una seconda volta dal Parlamento. In passato i Presidenti hanno peraltro rinviato leggi alle Camere non solo per possibili elementi di costituzionalità, ma anche per altri problemi, come soprattutto la copertura finanziaria. Il Presidente non può interferire con giudizi di opportunità politica sulla sovranità del Parlamento. E peraltro, il fatto che il Presidente promulghi una legge non vuol dire che questa legge sia passata al vaglio definitivo dei costituzionalisti. Il controllo formale e sostanziale è prerogativa di una Corte Costituzionale che altrimenti sarebbe privata di una sua precisa e importante autonomia di giudizio. E nel caso del lodo Alfano, il giudizio negativo della Corte non ha costituito per nulla un contrasto con il Quirinale. I poteri dello Stato si reggono su equilibri molto importanti e che vanno rispettati. L'attuale Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, interpreta molto bene questa divisione tra i poteri e non gli si possono chiedere giudizi o interventi che non gli competono. Mi ha colpito l'interrogativo che spesso viene posto. Come mai siamo al palo da 15 anni? Sono un dirigente industriale di 60 anni che ha lavorato e soggiornato in tutta Italia e da quando avevo i pantaloncini corti sento dire «Il divario tra nord e sud continua ad aumentare. Le mafie strangolano l'economia meridionale. Le tasse sono troppo elevate. La macchina pubblica è molto costosa e molto inefficiente. Bisogna eliminare le province e diminuire i parlamentari. La burocrazia soffoca imprese e cittadini e tiene lontani gli investitori stranieri. Mancano le infrastrutture». E tanti soldi vengono spesi male. La giustizia non funziona. L'inevaso è pazzesco. Diventi vecchio prima di risolvere una causa civile. Le tasse le pagano solo impiegati e pensionati. E se potessero, evaderebbero anche loro. Il nostro mercato del lavoro è ingessato. È una società gerontocratica di caste, corporazioni, intoccabili, raccomandazioni. Non riusciamo a fare le riforme. Troppe leggi ed enti inutili. A ciò si aggiunga. Non stiamo investendo nella banda larga. Stiamo gestendo i problemi dell'immigrazione solo con le ideologie. Per fortuna che abbiamo una classe di imprenditori che non si scoraggia e ce la mette tutta per uscire dalla crisi. E poi c'è qualcuno che si chiede perché aumenta l'astensionismo e i voti di Lega, di Pietro e Grillo. Claudio. Vi invio alcune considerazioni personali. Un terzo degli italiani non vota. In termini numerici si tratta del primo partito italiano, quindi grande potenzialità in crescita per tutti i partiti. È un fatto di grandissima importanza comprendere perché questi italiani non abbiano votato. Bisognerà motivarli al voto, se questo sarà possibile, in rapporto a determinati valori. Qui il Partito Democratico dovrà dimostrare di capire questi italiani, dovrà studiare, analizzare, comprendere quella che rappresenta una potenzialità enorme. Più che radicarsi sul territorio e stare tra la gente, sono importanti le idee che vengono diffuse e il modo in cui viene indicata la soluzione dei problemi. Ieri poteva avere un senso radicarsi sul territorio e stare tra la gente. Oggi ci sono la televisione ed internet. Forse si dovrebbero considerare con più attenzione questi mezzi. Il problema del Partito Democratico è che fatica a far arrivare le proprie idee e le proprie proposte. Vorrei poi intervenire sul tema riforme e federalismo fiscale. Se in questo paese la malavita organizzata fattura 135 miliardi di euro, qualcuno può pensare che al sud degli ospedali in futuro potranno funzionare come stanno funzionando al nord? Pensate forse che quelli della malavita organizzata si ritireranno per raggiunti limiti di età? Riforme. Che cosa si può riformare quando si ha una situazione del genere? Ho sentito che con il federalismo fiscale i cittadini saranno vicini al potere e così potranno controllare da vicino, per poi premiare o punire alle successive elezioni chi ha governato. Ma se questi si indebitano, i debiti chi li paga? A mio avviso, la riforma migliore in assoluto è far funzionare ciò che non funziona. Mi domando perché queste riforme miracolose non abbiano iniziato a farle 15 anni fa. Sono 15 anni che la ricchezza prodotta dall'Italia è in decrescita costante. Sergio. Sono un imprenditore svizzero e vi mando due righe sulla vicenda Sarko Carla giornalisti licenziati. Io credo che le vendette francesi si spingano più in là e siano ben più tremende di quelle italiane. Infatti, Patrick De Caroli, rispettatissimo presidente e direttore generale di France Télévisions, è stato virtualmente licenziato, o meglio, all'imminente scadenza del suo mandato quinquennale non verrà riproposto come consuetudine, sia per questa vicenda sia in generale per imperfetto allineamento alla presidenza. Un'altra precisazione. In Francia, con l'assenso dell'opposizione, durante il mandato il presidente è costituzionalmente il responsabile devant la loi, ovvero non è responsabile non solo al di sopra, ma addirittura al di fuori della legge. Si tratta di una locuzione assai più forte di qualsiasi proposta italiana, dettata dalla ragion di Stato, ovvero dalla necessità assoluta e condivisa di non rischiare il benché minimo vuoto di potere. Per questa ragione Chirac rende conto soltanto ora di fronte ai giudici. Alberto. Qualche volta sarebbe più conveniente per gli uomini parlare un po' di meno e mettersi un po' di più a fare gli spettatori. Il problema dell'aborto riguarda noi donne e spesso loro ne sono solamente la causa. Credo siano rari i casi di interruzioni di gravidanza che vadano contro la volontà di un uomo. Il più delle volte è la donna che non è appoggiata dal compagno e che, quasi per rispetto della sua volontà, accetta di negarsi un bambino. Faccio loro una domanda. Dovessero togliersi un dente, preferirebbero una leggera anestesia e farselo estrarre in 10 minuti per poi tornare a casa? Oppure preferirebbero prendere una pillola che in 3 giorni glielo facesse cadere lentamente, in modo sicuramente più doloroso e con la tortura di dover attendere l'evento? È una semplificazione quasi ridicola, lo so, ma credo veramente che una fase abortiva della durata di 3 giorni sia una vera tortura psicologica, veramente insopportabile, mentre un piccolo intervento di pochi minuti presso un day hospital sia meno doloroso, visto che la sofferenza più grande non è sicuramente quella fisica, che a dir la verità è davvero quasi nulla. Non capisco perché lo si chiami intervento chirurgico, quando in realtà non ci sono tagli, punti, cicatrici, perlomeno non sono visibili. C'è forse anche un po' di vigliaccheria nell'affidarsi a qualcuno che esegue e che ti scarica un po' di responsabilità. Ma forse anche questo può aiutare a non sentirsi completamente artefici dell'azione. E non avendo visto, ci sarà un ricordo in meno da rivivere. Forse sbaglio, ma chi ha vissuto l'esperienza sa di cosa parlo. Giulia. Egregio direttore, parlando del massacro di Katyn, avete detto che si è trattato di rappresaglia staliniana. In realtà, si è trattato dell'eliminazione di un enorme numero di ufficiali polacchi da parte dei russi, decisa a tavolino per poi prendere il potere in quel paese. Per decenni ne fu data colpa ai nazisti e mai i vertici del PC osarono obiettare. Ma la realtà delle cose era ben nota, tanto che io ragazzina, negli anni 60, la sentivo dire da mio padre che, ufficiale pilota, aveva combattuto a fianco degli alleati e sapeva bene cos'era realmente successo. Il film su questo orrore è passato quasi inosservato l'anno scorso in Italia, nonostante fosse di un regista famoso. Ero sicura che sarebbe stato visionato dal Parlamento in seduta comune, come era avvenuto per altri film importanti. Tanti. Invece no, non c'è memoria per tutti i morti, solo per alcuni. Mariangela. Queste